Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, oggi è il 6 di febbraio, Italia in controluce, la seconda edizione, il programma che tutti i giorni vi racconta la società italiana. E oggi vi raccontiamo il disastro organizzativo della città di Roma alle prese con un piano antineve che non c'era e che forse non c'è mai stato e che ha lasciato i cittadini di Roma in balia di se stessi per diverse ore, in particolare per 3 giorni. Il reportage di Cristina Carpinelli. Stiamo intervenendo su tutta la città per cercare di spalare la neve il più rapidamente possibile, perché adesso il problema passa dal rischio neve al rischio ghiaccio. Entro stasera dobbiamo liberare il massimo numero di strade possibili. Stiamo raschiando il fondo del barile in termini di tutte le possibilità che ci sono: esercito, protezione civile, qualsiasi intervento, anche l'ACER, i costruttori romani ci stanno dando una mano. Ovviamente il problema è quello di far sì che ci sia anche un intervento capillare, per questo chiediamo ai cittadini di dare una mano, anche di pulire la propria marciapiede davanti a casa. La preallerta non è stato adeguato, siamo stati informati male, ma adesso la nostra emergenza è quella di superare e liberare la città, poi dopo vedremo le responsabilità con un'apposita commissione d'inchiesta. Mi raccomando, dobbiamo mobilitarci tutti. Questo che avete appena sentito è l'appello che il sindaco di Roma Gianni Alemagno ha pubblicato tramite video sul suo blog sabato 4 febbraio. Ma che cosa era successo? Il giorno prima, venerdì, è caduta la neve su Roma. Sul suolo si sono posati circa 8 centimetri. Poca roba, ma che blocca un'intera città. Oggi, lunedì 6 febbraio, le scuole sono chiuse e anche gli uffici comunali. Cosa è successo a Roma? È caduta la neve. La nevicata del 56. Roma era tutta candida, tutta pulita. Si potrebbe dire che in questa storia ognuno ha fatto la sua parte per creare ancora più caos. Ma procediamo con ordine. Sabato mattina, dopo un venerdì di fuoco che ha visto la città interamente paralizzata, i cittadini si svegliano arrabbiati con il sindaco Alemanno. Il sindaco se la prende con la protezione civile e la protezione civile se la prende col sindaco. Così va in scena la litigata tra sindaco di Roma Alemanno e capo della protezione civile Gabrielli, ospiti entrambi da Lucia Annunziata sulla RAI. È stato largamente sottovalutato. Adesso non so se chiedi che colpa, non mi interessa attaccare Gabrielli in quanto persona. Io rilevo che in termini di allerta e di capacità di intervento della protezione civile in Italia non c'è più, è una realtà purtroppo burocratica. Io ho convocato alle 19:30 di giovedì un comitato operativo nazionale, che di solito non lo facciamo per 3 centimetri di neve o per 1 centimetro di neve. Io ho chiesto a tutti i partecipanti alla riunione se c'erano criticità, nessuno ha formulato richieste. Va bene. Quindi questa è sindaco, la verità. Questa obietta questa ricostruzione? No, perché il punto centrale è questo, l'eccezionalità di cui parla adesso Gabrielli non è stata comunicata. Noi dovevamo chiudere insieme alla prefettura uffici e scuole per mettere meno gente sulle strade e dovevamo fare subito l'ordinanza per mettere i mezzi antineve e non l'abbiamo fatto né io né il prefetto né l'ANAS perché la segnalazione era debole. Visioni diverse per un problema irrisolto, ci dice Gianluca Santilli, capogruppo PD al municipio Roma 6. Per Roma è una situazione piuttosto eccezionale, noi non vedevamo la neve ormai da circa 20 anni, quindi è chiaro che si tratta di fenomeni meteorologici importanti che hanno interessato la città, una trentina di centimetri di neve che però purtroppo hanno paralizzato la città, ci siamo fatti cogliere impreparati, probabilmente l'amministrazione avrebbe potuto fare qualcosa di più, ma cittadini, amministratori, insomma, ci siamo un po' tutti rimboccati le maniche per cercare di far fronte alla situazione. Gli interventi più importanti sono state fatte qui nel sesto municipio, per esempio, da le squadre dell'ufficio tecnico e del servizio giardini, che si sono messe prontamente al lavoro anche in giornate festive, insomma, le abbiamo trovati tutti pronti. Con pale e mezzi per lo spargimento del sale, abbiamo provveduto a liberare quelle vie che erano più importanti per la circolazione. Poi l'altro intervento importante è stato quello relativo ai pericoli di caduta dei rami degli alberi, che purtroppo hanno interessato alcune parti del nostro municipio e della città. Le critiche che i cittadini stanno muovendo al sindaco Alemanno sono legittime secondo voi del Partito Democratico? Io so che voi non volete entrare nello specifico di questa polemica, però voi che idea vi siete fatti di questa situazione, di come è stata gestita, insomma, l'emergenza neve a Roma? Beh, forse si è agito con un po' di superficialità. Gli avvertimenti che a Roma sarebbe nevicato c'erano da giorni, quindi non possiamo dire che non si sapeva dell'arrivo della neve. Purtroppo l'amministrazione si è fatta cogliere un po' impreparata, sono mancati a mezzogiorno di sabato, era già finito il sale da spargere sulle strade, i mezzi spazzaneve sono entrati in azione troppo tardi, gli autobus erano privi delle catene e sono rientrati tutti al deposito, insomma una gestione un po' così superficiale della situazione. Io capisco che fenomeni come questi sono molto saltuari a Roma, capisco che insomma Roma non è abituata come le grandi città del nord alla neve, tuttavia un po' di attenzione in più l'amministrazione comunale avrebbe dovuto metterla. Non è questione politica, non siamo solo noi a dirlo, ma sono i cittadini che si stanno lamentando effettivamente di come è stata gestita la situazione. In tutta questa storia, però, una considerazione più estesa va fatta e ce la dà Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, che dice quanto segue. Ma il primo punto è stata un po' la sorpresa per sentire attaccare la comunità dei meteorologi per una previsione che tutto sommato è stata tra le migliori previsioni che si potevano fare dell'evento nevoso a Roma. Quindi sicuramente era da una settimana che si sapeva che l'ondata di freddo siberiano avrebbe raggiunto l'Italia e anche le possibilità di neve su Roma erano elevatissime, per cui si potevano già prendere tutta una serie di provvedimenti precauzionali. Quali sono i provvedimenti che può prendere una città come Roma, non abituata alla neve, dove il fenomeno nevoso è episodico, una volta ogni 5-10 anni per una nevicatina che non si ferma neanche al suolo? La macchina organizzativa di un grosso servizio neve di una città del nord, come potrebbe anche essere soltanto Torino o Milano, costa milioni di euro. Allora cosa si fa in una situazione di questo genere? Per fortuna le previsioni c'erano, si sapeva con un certo anticipo, allora si tollera di avere una giornata di disagio una volta in 30 anni e non buttare via un sacco di soldi per tenere un inutile servizio neve. E quindi vuol dire che ci deve essere maggiore collaborazione di tutti per limitare il caos che comunque si dà per scontato. Ci sarà una giornata più caotica di quanto già sia, perché ricordiamo che a Roma non è certo Berlino e quindi il caos c'è anche quando c'è il sole, figuriamoci quando ci sono 8 cm di neve. Questo vuol dire evitare gli spostamenti inutili, intasare il meno possibile le strade, starsene a casa, si passa un giorno di ferie, un venerdì, si stava a casa e si lasciava la strada ai transiti di emergenza, delle cose che comunque devono pur sempre andare avanti anche in una giornata come una giornata di ferie. Allora ci saranno le ambulanze, ci saranno i medici, ci sono i servizi tecnici essenziali, la raccolta rifiuti se va bene e il resto si ferma un attimo. Invece si è voluto mantenere tutto come se niente fosse di una giornata normale e questo è il blocco che abbiamo poi visto. Avete ascoltato il reportage di Cristina Carpinelli sulla città di Roma e sul piano antineve. La seconda edizione di Italia in Controluce, questa, come tutte le puntate di Italia in Controluce, sono scaricabili in podcast radio24.it. per comunicare con noi siamo su Facebook, pagina gruppo, Twitter, il blog, la mail controluce radio24.it. torniamo domani alle 6.30 con nuove storie e nuovi reportage.